get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte, in studio siamo Pino e Caterina. Anche oggi vi vogliamo proporre un intervento mandatoci dalla dottoressa Daniela Ciriello. Ricordate, la psicoterapeuta che offre la sua collaborazione a Linea Lesbica Amica di Milano. E si tratta di una recensione del libro di Nancy Chadrov dal titolo Femminile, maschile, sessuale, Sigmund Freud e oltre, edito dalla Tartaruga Edizioni 1995. E passo a leggervi la sua recensione. Nancy Chadrov affronta in questo libro due problemi molto importanti, visto il crescente utilizzo da parte delle donne lesbiche delle cure psicoterapeutiche e molto dibattuti dalle femministe ad orientamento psicoanalitico e dalle psicoanaliste femministe. Il primo riguarda la pretesa universalità che la psicanalisi ha avuto nel definire il genere e la differenza di genere. Il secondo riguarda il riferirsi alla eterosessualità, attribuendo ad essa il ruolo di normatività, in modo tale da patologizzare ed escludere le sessualità alternative. Il testo della Chadrov si suddivide in tre capitoli. Il primo, più tecnico, è una rilettura di Freud sul tema delle donne. Da queste riflessioni emerge la possibilità di vedere le teorizzazioni di Freud come una preziosa descrizione psicodinamica del modo degli uomini di vedere le donne e di cosa sia per gli uomini la femminilità. Quando Freud si è posto il problema della femminilità, in realtà si è chiesto che cos'è la femminilità per un uomo. Nelle teorie di Freud, la donna non esiste come soggetto separato, ma come proiezione dell'uomo. Solo in questo modo potrebbe essere spiegata la sua eccessiva preoccupazione per il pene e per la castrazione e il pensiero che la donna sia un maschio castrato. Nancy Chadrov conclude che Freud ci ha lasciato una teoria normativa della psicologia femminile, ma una incompleta e frammentaria comprensione delle donne, a partire dalla inaffrontata analisi del rapporto madre-figlia. Ritiene comunque che siano ammirevoli le sue descrizioni cliniche e, nella pratica, la sua difesa delle donne isteriche e la sua condanna della repressione che conduce le donne all'isteria. Il secondo capitolo è la parte più incisiva e, azzarderei, provocatoria, già dal titolo «Eterosessualità come formazione di compromesso». Il punto di vista dell'autrice è che, paradossalmente, pur essendo la sessualità il nucleo del discorso psicoanalitico, tutta la letteratura relativa non è servita a farci comprendere l'eterosessualità. Tutto l'interesse si è incentrato sulle cosiddette deviazioni sessuali, per le quali deve essere fornita una spiegazione a partire da una normatività eterosessuale mai spiegata, data per scontata, della quale non vengono descritte le origini e le evoluzioni. Inoltre, le trattazioni sull'omosessualità si fermano specificatamente alla relazione sessuale. Invece, le trattazioni sull'esperienza dell'eterosessualità sembrano descriverla come qualcosa di più ampio che va al di là del sesso, cioè l'amore, l'innamoramento, la passione. È come se l'eterosessualità fosse qualcosa di più di una semplice questione di soddisfazione erotica o orgasmica e le altre sessualità fossero solo questo. Un'altra considerazione molto importante della Chadrov è che negli scritti sull'omosessualità si distinguono oramai omosessualità maschile e lesbismo come due sessualità differenti. Per l'eterosessualità non è così. Si parla di essa in generale, ma in realtà il modo di vivere l'eterosessualità delle donne e degli uomini è ben diverso. L'autrice attacca anche l'assunto che è alla base del disinteresse sulla genesi evolutiva dell'eterosessualità, e cioè il pensiero che essa sia innata o naturale. Se così fosse, un qualunque uomo potrebbe soddisfare il bisogno di affetto sessuale e relazionale di una donna eterosessuale, ma così non è in realtà. La scelta oggettuale è un complicato insieme di specificità culturali e individuali che dipendono dalla storia di ciascuna donna e ciascun uomo. L'autrice individua un altro elemento di debolezza o di contraddizione della teoria dell'eterosessualità innata nel fatto che il primo legame erotico di tutti gli esseri umani, maschi e femmine, è con la madre, per cui, almeno per le bambine, un legame omosessuale. L'autrice non condivide neanche la tesi innatista che in genere è riferita all'omosessualità maschile. Ritiene che sia riduttiva e non dia spazio alla specificità di ogni singola scelta, limitandola alla etero-bi-omosessualità. Le sensazioni sessuali sono legate alla psicologia di ogni individuo, sono dotate di carica emotiva e soggettivamente pregnanti, e la loro specificità può solo essere spiegata facendo riferimento alla biografia psicodinamica del soggetto e alla sua collocazione linguistico-culturale. Queste considerazioni della Chadrov sono, secondo me, estremamente significative perché, mettendo in discussione le teorie innatiste, peraltro accettate da molte comunità gay e circolanti anche nel mondo lesbico, in relazione alla propria scelta sessuale, danno una possibilità di comprensione sulle radici delle proprie scelte. Il fatto che la capacità di amare e di intrattenere relazioni d'amore ricche e diversificate sia presente nelle persone omosessuali ha portato a modificare la definizione di perversione, per cui il criterio di distinzione non è il genere dell'oggetto rispetto a quello del soggetto, ma la qualità della relazione. Cioè, è il desiderio di far male all'altro, altra, di ferire, di umiliare, degradare, caratteristiche decisamente presenti in molte relazioni eterosessuali, che rende la relazione perversa. Il motivo per cui l'omosessualità è stata considerata una perversione è probabilmente dovuto alla paura che suscita come rottura dell'ordine costituito, dell'identificazione nei ruoli culturali e perché propone nuove identità di genere. Non tutte le donne e tutti gli uomini riescono a vivere dentro immagini e ruoli preordinati. L'autrice propone di considerare qualsiasi sessualità in ogni sua forma ed espressione come problematica e meritevole di studio. Vengono affrontate le differenze nel modo di amare degli uomini e delle donne, arrivando alla conclusione che esistono tanti modi di amare quante sono le donne e gli uomini che amano. La bellezza di questo testo, la sua innovatività, stanno nella capacità dell'autrice di guardare alla sessualità con uno sguardo scevro da pregiudizi culturali e presunzioni teoriche, proponendo l'ipotesi che non esista un tipo di sessualità normale contrapposta a una sessualità anormale, ma tanti tipi di sessualità diversi. La perversione nella relazione è legata alla qualità del rapporto. Il brano che avete appena ascoltato è Letting Go di Fiona Joyce. Gli appuntamenti. Per la Fierté Lesbienne, l'equipa del Festival Lesbico di Parigi, Cannes les Lesbiennes sous fond de cinéma, organizza il 16, 17 e 18 giugno 2000 delle proiezioni all'interno della manifestazione. In programmazione Revoir Julie, premio del pubblico per il miglior lungometraggio della categoria narrativi sia a Parigi che a Bologna, Better Than Chocolate e Late Bloomers. L'indirizzo è MK2 Beaubourg Parigi 3. Per ulteriori informazioni si può contattare telefonicamente o inviando un fax l'associazione Cinefable al numero 0033 1 487 0 7711. L'associazione ha anche una email cinefable@wanadu.fr e un sito web http://associ.wanadu.fr/cinefable/. È in corso una iniziativa dal titolo Care Autrici, una rassegna di incontri letterari che si terranno al Recycle, associazione culturale di via Calabria 5 a Milano, a partire dalle ore 17. L'iniziativa è stata organizzata da Arci Lesbica Zami in collaborazione con la libreria Babele, Il Dito e la Luna, la libreria della donna, delle donne di Milano, scusate, e Recycle. I prossimi incontri saranno il 13 maggio 2000, Marina di Margherita Giacobino, edizioni PM, e il 10 giugno 2000, Orizzonti di Boria, di Pat Carrà, edizioni Quaderni di Via Dogana. Il 15 aprile invece si è già tenuto Sesso e Genere di Maria Nadotti, edizioni Il Saggiatore. Vi ricordiamo che l'ingresso è riservato a sole donne e che è gratuito. Comunque, per maggiori informazioni potete contattare Arcilesbica Zami, via Cicco Simonetta 15, 2100 a Milano. Telefono 0289 40 8671. Oppure il Recycle, associazione culturale, via Calabria 5, 2158 Milano. Telefono 02 37 61 531. Ancora, linea lesbica amica. Telefono 02 29 52 1109, tutti i giovedì dalle ore 19 alle ore 21. Arcilesbica di Roma ha organizzato, anzi ha attivato la linea di ascolto Arcilesbica, che risponde tutti i lunedì dalle 20.30 alle 22.30 allo 06 4180 369. Nel mese di aprile, nella sede di Via Monti di Pietralata 16, alla sala Ilaria Alpi, si terrà un ciclo di incontri a tema condotti dalla dottoressa Maria Ciccopiedi, psicologa. Mercoledì 12 aprile si è già tenuto il Tempo della Consapevolezza. A seguire, mercoledì 19, sempre alle ore 21, Arci Rimorchio, riflessioni sulla socializzazione nella comunità lesbica. Mentre mercoledì 26 aprile, sempre alle ore 21, il Tempo della Consapevolezza. Giovedì invece, 27 aprile, ore 20, si terrà l'Assemblea Ordinaria delle Associate. Vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita a cura del coordinamento lesbiche romane all'interno del martedì femminista autogestito di Radio Onda Rossa sugli 87,9 MHz. Vi ricordiamo che potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 oppure potete chiamarci o inviarci un fax allo 06 68 64 201. Per gli amanti dell'informatica, l'indirizzo della nostra posta elettronica è clrbp@hotmail.com. Vi ricordiamo anche che la musica di sottofondo sul parlato è di Angela Bernan. Per la musica lesbica indipendente abbiamo scelto per voi Wave di Kick la Luna. Look. a tutte e sono Caterina. Oggi volevo parlarvi di un film che ho visto qualche giorno fa. Si tratta di Ragazze interrotte con Winona Ryder, che è anche la produttrice esecutiva del film, e Angelina Jolie, la quale ha ricevuto il premio Oscar come migliore attrice non protagonista. Il film parla di una storia vera tratta dal libro autobiografico di Susanna Kaysen. La pellicola parla dei problemi, se vogliamo chiamarli così, di un gruppo di ragazze in bilico tra pazzia e normalità, ricoverate in una clinica psichiatrica a metà degli anni 60. A me è piaciuto molto, ma questo giudizio positivo l'ho maturato solo dopo un po' di tempo. Quando sono uscita dalla sala cinematografica, ricordo che la sensazione che avevo era buona, ma non riuscivo a mettere bene a fuoco cosa quella pellicola mi rimandava veramente. Sicuramente ho trovato, nella complicità tra le ragazze descritte in maniera molto efficace, un qualcosa a me molto familiare. Tutte le ragazze, infatti, solidarizzano e formano un blocco unico contro il corpo medico e paramedico che, in quel contesto, rappresentava il potere. Inoltre, trattandosi di una clinica psichiatrica, c'erano chiaramente le figure degli strizzacervelli che, almeno a quanto raccontavano le ricoverate, dovevano essere insensibili creature non esenti da peccati. L'epilogo della storia mi portava a pensare che il film fosse, paradossalmente, una sorta di sponsorizzazione a quel tipo di centri. Solo dopo, riflettendoci e pensando bene a tutti i passaggi, ho capito che non era proprio così. Mi rendo conto che per chi non ha visto il film, forse si rende necessario un piccolo resoconto o, se preferite, un riassunto della storia. Dunque, Susanna, la protagonista, è una ragazza di una famiglia medio-borghese che ha degli atteggiamenti definibili dagli altri, perfettamente integrati, alquanto stravaganti. Inoltre, il suo continuo porsi domande esistenziali la fa passare come una ragazza alla continua ricerca dell'impossibile e del non detto. In realtà è solo una giovane donna che non dà niente per scontato e che cerca altro. I genitori chiedono allora aiuto ad un loro amico di famiglia, uno psichiatra in pensione, il quale riesce a convincere la ragazza ad autoricoverarsi in questa clinica, descritta quasi come una pensione molto allettante dove finalmente Susanna potrà riposarsi e tornare in sé. Come spesso succede, una volta firmati i fogli del proprio ricovero ed entrando nel reparto, Susanna si rende conto e vede con i suoi occhi che in realtà quel luogo, la realtà in quel luogo, è ben diversa da quella proclamata. Entrare in contatto con così tanto dolore la convince sempre di più di essere normalissima, normalissima tanto da manifestare la volontà di andarsene. Ma ci sono i fogli del ricovero da lei stessa firmati che consentono alla struttura di mantenerla dentro. Poi un giorno, alla clinica, viene riportata con la forza dalla polizia Lisa. Lisa è una coetanea di Susanna abbastanza ribelle che la introduce in un mondo segreto. Per cominciare le insegna come fare a non prendere più le pasticche di calmante che regolarmente vengono date a tutte. Poi la fa entrare in quella sorta di banda segreta formata da un ristretto numero di ricoverate con le quali Susanna scoprirà come uscire di notte, entrare nello studio privato della psichiatra per leggere le proprie cartelle cliniche ed accedere ai sotterranei dell'istituto per giocare al bowling, fumare, ridere e scherzare. Una serie di vicissitudini portano ad un epilogo sconvolgente. Daisy, una delle ragazze del gruppo, muore suicida. Lisa è sottoposta ad elettroshock e Susanna inizia il suo percorso di analisi che la porterà, non tanto tempo dopo, ad uscire dalla clinica. Allora, detto così e visto il film senza riflettere molto, sembra quasi giusto che Lisa, la disadattata, venga riportata con ogni mezzo nei ranghi in modo che non possa più farsi del male. Ci si commuove quando Daisy si suicida e ci si rincuora constatando che Susanna, alla fine, esce rinsavita dalla clinica psichiatrica. Analizzandolo invece in modo più approfondito, si scopre che, in fondo, la maggior parte di quelle ragazze, per loro, il vero problema era stato generato da una società conformista, bigotta e disattenta, sempre pronta ad annientare e rinchiudere chi osava obiettare la regola, soprattutto quella di non volersi omologare ai codici dati senza discutere. C'era la figura di una ragazza che probabilmente era stata rinchiusa lì dentro solo perché lesbica. La stessa Lisa, descritta così trasgressiva, libera e forte, in realtà era una ragazza fragile e sola che rimaneva in quella clinica soltanto perché lì dentro e solo lì riusciva tutto sommato ad essere se stessa e, esercitando un minimo di prepotenza, poteva godere di alcuni privilegi. Ma fuori, nel mondo reale, era convinta che si potessero scambiare atti sessuali con chi che sia in cambio di una parvenza di libertà. Libertà di essere se stessa, probabilmente mai avuta. Per alcune di loro, i problemi pressanti che incombevano sulle loro menti erano stati provocati da maschi senza scrupoli. Susanna, per esempio, era stata oggetto di attenzioni da parte di un amico di famiglia. Daisy, che poi si suiciderà, era sempre stata l'amante del padre. E tutto questo avveniva sistematicamente nella più totale assenza di condanna sociale nei confronti dei veri colpevoli. La verità viene fuori piano piano, lasciandoti sconcertata e con l'amaro in bocca, soprattutto perché si ha la conferma che, in ogni caso e sempre, le donne vengono colpite personalmente e in modo devastante. In un contesto del genere, l'analisi non era niente altro che l'unico mezzo per entrare in contatto col proprio dolore. Non si trattava più di omologarsi ed accettare le regole date, ma sviscerare e tirare fuori quanto la prassi comune provocava nell'intimo di ragazze adolescenti calpestate continuamente. Un dolore profondo può trasformarsi in voglia di vivere. Mi sarebbe piaciuto vedere nel film un atto di condanna forse più esplicito, ma forse non era né quella la sede né il contesto giusto. Solo grazie alla nostra forza possiamo alzare la testa e dire basta. Basta alla violenza psicologica, alla violenza fisica, alle regole scandite da chi non ha interesse a rispettarti. Basta alla negazione, basta alla cancellazione, basta. Un film decisamente da vedere e che consiglio a tutte. Ora vi lascio in compagnia di Sylvie Genovese, una cantautrice che ancora purtroppo non è entrata nel circuito discografico e che autoproduce la sua musica. Sylvie la si può trovare alla Scuola di Musica Popolare di Testaccio. Il brano che ho scelto è Adesso io vado sola, tratto dal CD Alteration. Ciao a tutte. Troppo ignari, troppo sequienti al volere frustrato dei vecchi usati parenti. Il tempo torna da me con la fragranza del pane sfornato. Mi si offre libero, disinformato. Il tempo è una parola. Mi libero degli amici. abiti pesanti della casa offuscata da nebbie di cucina, pranzo, cena, mattina che incombe come una pietra nera di affetti che ti schiacciano al suolo. E per concludere vi faremo ascoltare una poesia tratta dal libro Considerate le circostanze, antologia di poesie e racconti erotici lesbici, a cura di Lee Fleming, edito da Il Dito e la Luna. Noi tre. Noi tre potremmo ballare un cia-cia-cia, mano nella mano nella mano, toccandoci i fianchi da ogni parte, dondolandoci al ritmo che noi tre creiamo. Noi tre potremmo intonare una canzone di donne felici, massaggiarci i seni l'una contro l'altra e toccare l'una le cosce dell'altra per emettere il caldo e l'umido che noi tre formiamo. Potremmo permearci e permutarci, saturarci e ricombinarci in modi che due sole mai troverebbero, creare la passione e bruciare di desiderio al punto che in due si potrebbe solo sperare. Noi tre potremmo accendere un fuoco così intenso che voi due sognereste per molti, molti anni. What you gonna do when the silence falls? What you gonna do when the silence falls? Dance alone to the radio, all dressed up, no place to go. What you gonna do when the silence falls? What you gonna do when the silence calls your name? What you gonna do when the silence calls your name? Make your speeches to the wind, count the votes.